Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, Brustellando, martedì in vostra compagnia e lo sarà per circa 25-26 minuti. Sono tante le cose che vorrei raccontarvi, ma il tempo, come sapete, oltremodo tiranno. Quindi, innanzitutto, saluto tutti voi che siete all'ascolto. E poi, prima di passare la parola all'ospite di questa sera, volevo parlarvi del Brussels Film Festival, che è cominciato lo scorso venerdì 5 giugno e proseguirà fino a venerdì, quindi il 12 giugno, tra Place Flagey e Cinémathèque. È una edizione del festival oltremodo ricca, come sapete Brustellando segue il festival già da 3 anni, sebbene questa sia la sua 13ª edizione. Ci sono 11 film, 11 prime nazionali, europee e mondiali, ci sono 121 lungometraggi e un ricco montepremi per tutti coloro i quali hanno o stanno, meglio, stanno partecipando alla manifestazione. C'è anche un po' d'Italia, c'è un po' d'Italia nella giuria ufficiale, che quindi saluto Antonella Salvucci, che è membro ufficiale della giuria, che ha lavorato con Pupi Avati, Lamberto Bava, Paolo Sorrentino, Le conseguenze dell'amore, Christian Querion, Olivier Massé de Passe, Erika Saint e Wim Willard, sono i membri della giuria. Special guest Jacques Wallon, che era ieri sera a Place Flagey, che potete ricordare per le sue séances di lutte, che effettivamente è un film credo che abbia fatto storia e che fu trasmesso proprio al Film Festival 2 anni fa, e quindi è praticamente, insomma, uno di quei film che fa sempre piacere rivedere. Per quello che riguarda invece il cinema italiano presente alla manifestazione, ricordo Wondrous Boccaccio, diretto dai fratelli Taviani, da Paolo e Vittorio Taviani, che ci raccontano una Firenze decimata nel XIV secolo proprio a causa della peste, 10 giovani che si rifugiano nella campagna e, come sapete, parlano di amore. Il film praticamente sarà trasmesso tra meno di un'ora alle 21:30 a Place Flagey per, insomma, allettare un po' la curiosità di quanti ancora non sappiano cosa fare dopo cena. Il cast si compone di Riccardo Scamarcio, Kim Rossi Stewart, Jasmine Trinca, Rosabella Laurenti Seller e ovviamente con uno screenplay di Paolo e Vittorio Taviani. Invece, restando sempre in quelle che sono le atmosfere, le aree italiane, Latin Lover di Cristina Comencini, giovedì 11 giugno alle 19:30, sempre allo studio Flagey numero 4. E qui saluto, anche se in maniera ovviamente letteraria, Virna Lisi, che non è più con noi. Latin Lover è la storia di un celebre attore italiano intorno a cui, nonostante sia passata a miglior vita già da qualche anno, raccoglie e fa ancora parlare di sé. Cristina Comencini ci racconta una storia di donne che guardano agli uomini, quindi una storia effettivamente molto bella, ma anche un film che vuole omaggiare la commedia italiana in tutte le sue forme più belle. Ci sono ancora 2 film di cui vi volevo parlare: Je suis mort, mais j'ai des amis, che uscirà al cinema il 17 giugno, ma per quanti vogliano vederli in anteprima in Belgio invece il 10, quindi domani sera alle 19:30, e La Loi du Marché, che è stato poi il film di apertura del festival con Vincent Landon, che come sapete ha vinto anche il premio come miglior attore maschile a Cannes. Che dire? È un film semplice, non è la storia ovviamente che ci sorprende, nonostante la complessità del mondo del lavoro, così come viene descritta dal film, ovviamente non può farci che riflettere, veramente interrogarci su dove stiamo andando, quanto questo capitale umano, così come qualcuno lo ha definito sotto altri aspetti, poi abbia senso di essere. Eppure Vincent Landon, nei panni di un scusate, sto cercando la parola perché sapete, tradurre tra una lingua all'altra a volte non è proprio il massimo. Comunque lui si occupa di sicurezza in un supermercato e deve quindi spiare il lavoro degli altri. Quindi potete immaginare quella difficoltà di un personaggio veramente tessuto con precisione i dilemmi che oggi il mondo del lavoro è chiamato ad affrontare. La Louis Mercier uscirà poi sul grande schermo il 10 giugno. E un altro film che vi volevo ricordare invece è Un uomo ideale, diretto da Ian Gosling. Mi piace ricordarlo perché la trama, nonostante mi auguro di non incontrare nessun autore, così come protagonista, questo giovane, scusate, Mathieu, che è il protagonista, magistralmente interpretato da Pierre Niney, che ricorderete ancora nelle vesti di un giovane Yves Saint Laurent, uno dei film che ha consacrato anche Pierre Niney, già che ebbe proprio il César du meilleur acteur per questo ruolo, quindi svolge il ruolo di uno scrittore usurpatore, quindi insomma è un polar che alcuni hanno paragonato a Plein Soleil o La Piscine, che io personalmente invece riconduco un po' a Bellamy di Maupassant e a Match Point di Woody Allen. Poi sarete voi a dirmi se concordate più con l'interpretazione belga o con la mia interpretazione. Quindi Dani M, mi facevano dalla regia e ha perfettamente ragione, mi sono dilungata perché abbiamo anche un ospite qui in studio, quindi Brussels Film Festival fino a venerdì, quindi vi ricordo questa sera ancora i Fratelli Italiani, giovedì alle 19:30 Cristina Comencini con il suo Latin Lover. Per quanti volessero saperne di più, vi consiglio il sito che è veramente preciso in tutti i suoi dettagli, filmfestival.brussels, e noi ovviamente vi daremo maggiori informazioni circa i premi, perché sono tanti, prossimamente. Veniamo invece all'ospite di questa sera. Ne abbiamo parlato più volte, era una puntata che avrei tenuto a veramente fare martedì scorso. E parliamo della Finestra della Libertà, frontiera per un'altra Europa, storia degli internati ebrei di campagna. E quindi cambiamo veramente letteralmente pagina, en plonge, quindi ci trasferiamo anche mentalmente al settembre del 1943, a questa storia che riscopre protagonisti silenziosi, protagonisti che hanno salvato molte vite umane, proprio in un momento in cui invece altrove la parola d'ordine sembrava quella della morte. Abbiamo qui con noi l'autrice Giuseppina Di Stasi, che ha conseguito un dottorato di ricerca in filosofia, scienze e cultura dell'età tardo-antica, medievale ed umanistica. Insegna filosofia e storia nelle scuole secondarie di secondo grado. Ne approfitto per salutare il coautore, che non è qui con noi, Renato Mazzei, e vi ricordo invece che il libro è a cura delle edizioni Edup, che potrete anche acquistare online. Sentiamo Giuseppina che cosa ci racconta. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Saluto con piacere gli ascoltatori di Radio Alma. Di che cosa parla il libro? Il libro è incentrato sulla storia di due medici ungheresi, Chaim Paes e Max Tanzer, i quali salvarono una cittadina di campagna da un'epidemia. È suddiviso in tre capitoli. Nel primo capitolo c'è un'introduzione storica dove si parla dell'introduzione delle leggi razziali e quindi del contesto nel quale si svolge la vicenda. Il secondo capitolo invece è dedicato alle pagine di un diario di Eugenio Lipsic, il quale fu un internato nel campo di campagna e che racconta in maniera dettagliata come si svolgeva la vita nel campo. Il terzo capitolo, che invece poi quello un po', se vogliamo definire, clou del testo, è dedicato appunto a questi due eroi silenziosi, questi due medici che salvarono la cittadina dall'epidemia in seguito ad un bombardamento che ci fu il 17 settembre del 1943. In effetti, noi in questo testo, io e Renato Mazzei, che è l'altro coautore con me del libro, vogliamo raccontare un paradigma di come sia possibile, attraverso un'azione individuale, compiere il bene anche in una pagina così triste e angosciante della nostra storia, che fu quella della Shoah. Bene, effettivamente parliamo di tematiche di cui pure recentemente Repubblica ha Repubblica ha parlato. Infatti Repubblica ci dice che uscirà tra poco uno studio in cui ci sono le prove che ci sono stati dei delatori, non solo italiani come qualcuno potrebbe pensare, che hanno venduto, possiamo dirlo oggi, penso a distanza di tempo, delle vite, pensate, per 5.000 lire, le 5.000 lire di allora o per 15.000 lire, quindi è un tema che nel suo piccolo, tutto sommato, è ritornato. Allora partiamo quindi dal libro, partiamo dal titolo che, come sai, mi piace molto. Quindi, che cosa indica la finestra? In questo caso tu dici la finestra della libertà, e soprattutto siamo a Bruxelles, quindi perché si parla di un'altra Europa? La finestra ha una duplice valenza, perché ha sia una valenza simbolica, in quanto sta a significare la soglia che separa l'umanità dall'inumanità, che è appunto la pagina dei campi di concentramento, quelli nei quali noi ricordiamo persone essere morte ingiustamente in maniera crudele, ma indica anche il luogo fisico dal quale questi 250 ebrei che erano internati, grazie alle persone che le hanno salvate, nella fattispecie il Remo Tagliaferri, che è il loro custode, riuscirono a scappare. Quindi è sia materialmente il luogo di fuga attraverso il quale queste persone riuscirono a salvarsi, ma è anche la soglia simbolica verso cui era possibile costruire un futuro fatto di speranza e di umanità. L'altra Europa invece sta ad indicare appunto che in quel contesto in cui il male sembrava poter avere la meglio, invece c'era in nuce un'Europa degli uomini che sanno costruire il bene e che anche a rischio della propria vita scelgono di salvare gli altri pur di costruire un mondo migliore. Queste mi sembrano essere veramente parole straordinarie, quindi mi viene da chiederti anche altro. Come sai, c'è un tema che mi ha sempre molto interessato, che è il rapporto tra la microstoria, quella che tu stai raccontando, con la macrostoria, cioè con quegli eventi che sfuggono ovviamente al controllo del singolo perché deciso altrove. Quindi, prima di continuare nello specifico nei contenuti proprio del libro, mi veniva di chiederti che rapporto c'è in questo volume tra il tempo ed il pensiero, o meglio, sarebbe meglio dire tra la prassi individuale ed il divenire storico? Beh, questa è una domanda molto complessa, per rispondere alla quale in realtà ci vorrebbe molto molto tempo. Mi limito giusto ad esprimere qual è il pensiero che sta dietro al libro, e cioè che ognuno di noi, in ogni singolo istante, se riesce a farsi carico della responsabilità verso l'altro, questo è un pensiero mutuato dal pensiero di Emmanuel Levinas, può riuscire a costruire un mondo diverso. E questo a significare che il metodo storico di far interfacciare la microstoria con la macrostoria vuole anche darci delle coordinate scientifiche diverse per dire alle nuove generazioni, ma anche alla società attuale, che così fortemente forse ha bisogno di valori forti, che questo potrebbe essere un metodo vincente. La prassi individuale, il divenire storico, in che rapporto sono? Beh, secondo me sono in un rapporto molto stretto, perché quando noi sentiamo dire che noi siamo la storia, forse a volte non ci crediamo molto, però quando poi ci imbattiamo in queste vicende, ce ne sono state tante in passato come anche attualmente, tanti sono gli eroi che silenziosamente contribuiscono a migliorare la realtà che ci circonda, in quel momento mi viene di pensare che forse è proprio questa la strada che dobbiamo perseguire, convincerci che attraverso la nostra azione individuale in ogni singolo momento noi contribuiamo in maniera osmotica a costruire un mondo diverso e magari alla nostra portata. Quindi se questo è davvero il senso, quindi l'importanza di questo divenire storico che riguarda anche noi individualmente, questo è anche uno dei motivi per i quali hai voluto parlare di un tema così articolato, partendo da un avvenimento verificatosi in un piccolo paese dell'entroterra salernitano? Sì, in effetti può sembrare strano, perché, come ho detto prima, in realtà questa vicenda è paradigmatica di un processo di formazione delle coscienze civili. Parto dal presupposto che l'Europa non è solo un grande organismo politico ed istituzionale, ma anche un'idea per cui migliaia di persone hanno combattuto e sono morte. Basti pensare a come laboriosamente noi siamo giunti appunto all'idea di Europa, e cito fra tutti il testo di Chabot, che sicuramente è noto a chi ci ascolta, e anche agli ideali che hanno animato i padri dell'Europa all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta quindi di un'idea che è nata anche sui campi di battaglia di ogni dove, per cui i luoghi che noi narriamo in realtà rappresentano il simbolo per dire che queste vicende non ci sono state solo nella provincia salernitana, ma sono da esempio, da paradigma di riferimento per dire che hanno riguardato l'intera costruzione della storia europea. Quindi mi sembra di capire che si tratta di un tributo anche al valore della memoria, e il volume è dedicato anche alla memoria. Ma in che modo allora? Io so che tu sei un insegnante, che ti trovi anche a vivere quotidianamente con una fascia di età che per esempio a noi sfugge, almeno ad alcuni di noi, che è quello tra i 14 e i 19 anni. Quindi in che modo possiamo realmente costruire un mondo migliore? Io penso soprattutto a loro perché saranno, come dice qualcuno, l'intelligenza di domani, quindi saranno la classe dirigente di domani. Ma secondo te la memoria fino a che punto è ancora importante, percepita, è capita? E soprattutto io credo che bisogna continuare a ricordare, con intelligenza, perché anche questo poi bisogna saper ricordare. Tu cosa ne pensi in merito? Beh, questa è un'altra questione veramente molto molto articolata. Partiamo dal principio. In effetti la problematica delle differenze culturali e politiche tra le generazioni rispetto alla storia delle deportazioni non è stata, secondo me, sufficientemente indagata. E mentre scrivevo il libro pensavo anche a questo, a come dover educare i giovani rispetto a certi valori. Di sicuro i nuovi mass media un po' stanno allontanando i ragazzi da storie così complicate. Forse per formare le nuove generazioni e per dare il giusto senso e il tributo che merita alla memoria, noi dobbiamo fare proprio questo, cioè porre loro degli esempi come punto di riferimento abbastanza forti dal punto di vista etico e che siano puliti, perché i ragazzi hanno bisogno di questo, hanno bisogno di esempi veri che devono avvertire come tali, e sono sicura che rispetto a valori così importanti come la solidarietà, il bene, ma anche la forza di saper stare insieme attraverso la cultura, attraverso un'integrazione autentica, sapranno benissimo come rispondere. Dare tributo alla memoria significa anche ridurre un po' il distacco generazionale che sembra si stia creando e prospettare un mondo che sappia partire dal passato, perché non ci può essere vero futuro senza una conoscenza approfondita e non filtrata del passato. Per cui dobbiamo cercare di evitare alcune derive culturali che, ahimè, sempre di più offuscano l'idea di Europa che noi stiamo vivendo. In effetti ci sono venti, insomma, che soffiano da tante parti, anche sul concetto stesso di Europa. Quindi abbiamo parlato di tante cose belle, abbiamo parlato della memoria, abbiamo parlato del rapporto tra microstoria e macrostoria, però c'è un'altra curiosità, forse nemmeno curiosità, perché mi rendo conto che quando si parla di identità, soprattutto di identità europea, probabilmente c'è tanto da costruire. Quando tu parli di quest'altra Europa, di questa Europa che è nata quando ancora nessuno ne parlava, perché l'integrazione, poi vi leggerò un bel brano estratto anche dal saggio, nasce veramente dal basso, nasce quando persone che parlano magari la stessa lingua ma vengono da culture, radici diverse, trovano un modus vivendi, un modus operandi che permetta loro di integrare le proprie rispettive culture. Ma quanto è difficile oggi parlare di identità, e soprattutto possiamo ancora avere il coraggio di parlare di identità, e se lo facciamo verso quale meta possiamo ambire, verso dove rivolgere quindi il nostro sguardo? Beh, l'identità è un tema caldo, un po' come tutti quelli che stiamo affrontando stasera. Di sicuro l'identità ci serve per poter generare un solco che ci condurrà verso un futuro più preciso, più consapevole, perché forse è questo ciò di cui abbiamo bisogno, un maggiore atteggiamento critico verso la storia che viviamo, ma anche verso ciò che ci attende. Parlare dell'identità oggi significa in qualche modo, ed ecco perché qui è determinante, ritorna alla questione precedente della memoria, è determinante sapere che cosa è stata la nostra storia e cosa ci ha consegnato. Cioè noi dobbiamo anche imparare a saper leggere il passato per non ripetere gli errori. Non perché semplicemente la storia è maestra di vita, ma perché anche ciò che ci ha formato e di cui noi siamo parte. Per cui parlare di identità significa conoscere bene anche se stessi, la propria storia, l'ambiente di riferimento, ciò che ci circonda, ma anche capire che cosa noi vogliamo essere. Quindi per riuscire a rispondere a questa questione dovremmo saperci anche interrogare. Che ruolo abbiamo oggi nel mondo e che cosa ci attende? Quali sono le sfide del domani? Sicuramente l'identità è una partita molto aperta, importante e credo che sarà un po' un elemento discriminante rispetto all'evoluzione anche dell'idea europea. Per cui io dico a quanti ci ascoltano, ma in particolare ai ragazzi, imparate ad avere le armi giuste dal punto di vista culturale ed intellettuale per riuscire a capire fino in fondo qual è il vostro tempo e fatelo con un'identità precisa, perché avere un'identità significa anche dire io sono questo. Allora, come dicevamo prima, voglio leggervi un paragrafo che è anche una testimonianza, già che quando gli ebrei, questo gruppo di ebrei, arrivò nella cittadina salernitana, la popolazione per lo più non si rese conto di cosa significasse e implicasse quella presenza. La testimonianza qui riportata di un falegname del posto, Antonino Palladino, il quale si occupava all'interno del campo di lavori di rifinitura. A tale riguardo, quindi, la sua testimonianza è veramente chiarissima. Era il 39. Io ero giovane allora e non sapevo neppure chi erano questi ebrei. Tanto è vero che quando sono arrivati questa gente, loro parlavano in italiano come noi e io mi dicevo, che significano questi ebrei? Quello poi che successe quel giorno lì, che questa gente, no, scendevano dai camion. E quello che io rimasi più sbalordito è che loro erano attaccati con queste catene vicino a un'altra catena. Poi scesero dai camion. E io vidi un giovane come me che stava fra di loro e gli domandai, ma avete fatto qualche omicidio? Avete fatto qualche omicidio? E lui rispose, noi siamo povera gente, noi siamo ebrei, questo è quanto. Ma io non capivo perché questi ebrei li avevano arrestati, e perciò gli dissi, che c'entra che siete ebrei? E vi hanno attaccato di questa maniera i fascisti, evidentemente l'autore si riferisce alle catene. Io non riuscivo proprio a capire, e poi quando mi disse che era una questione religiosa io rimasi sbalordito. Che c'entrava la religione? Ognuno deve credere quello che vuole. Solo perché erano ebrei dovevano stare così? Io per questo rimasi scontentissimo. Chi andava trovando questo fascismo? Sono parole che quando le ho lette mi hanno profondamente toccato, anche perché da quanti decideranno poi di leggere questo saggio, vi renderete conto che la storia di questo piccolo gruppo di ebrei fu veramente particolare, fu diversa rispetto all'esperienza vissuta da altre comunità. Quindi sono anche curiosa di sapere, purtroppo ahimè il tempo in radio è oltremodo tiranno, innanzitutto se c'è qualcosa che non ti ho chiesto, che vorresti aggiungere prima di avviarci alla conclusione. No, volevo solamente spiegare in che modo questa esperienza è stata diversa dagli altri campi di internamento, di concentramento. Tra la cittadina salernitana e le persone che giunsero nei campi di internamento ci fu veramente una bella osmosi, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista culturale, tant'è che anche con la supervisione delle forze dell'ordine si chiudeva spesso un occhio e si lasciava che queste persone potessero valicare un po' le linee di confine che erano state loro indicate. Una parte di queste persone riuscì anche a vivere negli appartamenti della cittadina, quindi svolgendo, tra virgolette, una vita normale, anche se il pensiero era sempre quello di voler tornare a casa. Però furono in grado di curare molte persone, quindi svolgendo anche la propria professione, alcuni erano medici, altri svolgevano altre attività, ma organizzavano anche incontri teatrali, di musica, per cui ricevevano un'accoglienza dal punto di vista umano molto intensa, che si ritrova anche nelle pagine del libro e nelle testimonianze dirette che voi potrete leggere, ma nello stesso tempo erano in grado di dare a loro volta qualcosa in più che veniva fuori dalla propria esperienza, quindi ecco perché il senso autentico dell'integrazione. Questo ci è piaciuto di questa pagina, che si è trattato di una costruzione di pace autentica, ma anche di un saper vivere civile, che si basava su due concetti fondamentali, la giustizia e la libertà. E credo che questi siano poi il filo conduttore del libro e anche i veri colori di questa storia che mi piacerebbe qualcuno potesse ricordare. Quindi che cosa bolle in pentola? Che cosa ci possiamo aspettare dal libro stesso? Che cosa è accaduto in Italia? Quali sono state le reazioni? Soprattutto ci sarà un seguito? Sicuramente ci sono delle cose importanti, degli sviluppi importanti, perché a questi due medici è stata fatta richiesta per dare loro la cittadinanza onoraria, ma anche la medaglia d'oro al valore civile, che dovrebbe essere conferita dal Presidente della Repubblica. E credo ci siano anche degli sviluppi dal punto di vista editoriale, perché stiamo già preparando una seconda edizione con delle integrazioni e probabilmente anche qualcosina in più, non lo sappiamo ancora, potrebbe anche nascere qualcosa in ambito cinematografico. Quello che è importante però sottolineare ancora è che si è trattato di un tributo al saper vivere civile e al bene, quello è il messaggio fondamentale. Oggi noi sentiamo sempre storie negative, noi invece vogliamo dire che con una condotta corretta e guardando al bene comune un mondo migliore è possibile, dobbiamo crederci tutti e dobbiamo fare tutti in modo di agire in questo senso, perché solo così possiamo costruire una società civile allargata e volta alla dimensione dell'alterità. Quindi ricordiamo ai nostri amici all'ascolto La finestra della libertà, frontiera per un'altra Europa, storia degli internati ebrei di campagna, a cura di Giuseppina Di Stasi e Renato Mazzei, edizione EDUP, che è possibile acquistare anche online. Giuseppina, un'ultima domanda velocemente, vorresti indirizzare un saluto dai microfoni di Radio Alma di Brussellando? Sì, con piacere, saluto Mari D, saluto tutta la redazione di Radio Alma e ringrazio ancora per l'invito e saluto i nostri radioascoltatori. Voglio salutarvi con una frase di Albert Einstein che un po' ci ha guidato nella stesura del libro. Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai delinquenti, ma per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. Credo che ognuno di noi debba pensare sul senso di queste parole e ognuno di noi sia chiamato ad agire per fare nel proprio piccolo e per quello che gli compete qualcosa di più per poter cambiare il mondo. Non sono grandi pretese, sono piccole azioni che se però tutti quanti mettiamo insieme, convogliandole in un'unica direzione, forse qualcosa potrebbe cambiare. In effetti, come dici anche tu nel libro, questo libro ci racconta per l'appunto di un'altra Europa. Un'Europa nata sulle ceneri di regimi totalitari, anche grazie a uomini semplici e coraggiosi, come i tuoi protagonisti, che immaginiamo mentre aprono la finestra della libertà, la scavalcano per correre a perdifiato verso le montagne, voltandosi un'ultima volta per guardare i loro cari e tutte le persone che hanno conosciuto, nella consapevolezza di aver fatto, fino in fondo, il proprio dovere. Questa puntata doveva anche aver luogo, questa intervista, lo scorso 2 giugno, perché voleva essere anche un omaggio alla nostra festa della Repubblica. Purtroppo, e forse questa puntata assume ancora un significato più importante, la possiamo praticamente proporre soltanto questa sera, come vi dicevo prima, a causa di un atto di vandalismo che ha praticamente distrutto il nostro piccolo studio, e assume quindi un significato ancora più importante. E allora, mentre io ringrazio Giuseppina e invito tutti voi ad acquistare una copia del libro, e se voleste averne una copia, mi è ancora rimasta qualche copia qui a Bruxelles, quindi scrivetemi a brussellando@gmail.com, così posso darvi i riferimenti ed una copia del libro. E voglio salutarvi, prima di passare la parola a Fiordaliso e a Georges, e di lasciarvi anche con una canzone che Giuseppina stessa ha scelto, vi saluto per l'appunto con un messaggio, augurandovi un'ottima settimana e soprattutto che questa frase, così come quella di Einstein precedentemente, possa veramente farvi riflettere. Lo dico perché in questo momento, in un momento anche di transizione importante, in un momento di cambiamenti epocali, perché l'internet, la tecnologia e la società nella quale viviamo è veramente un'età di transizione nuova, diversa rispetto al passato, allora io credo che queste parole, le parole di San Normari, la liberazione, possano veramente guidarci ancora. Credo che nessuno soffra invano, credo che gli esseri umani imparino dalla sofferenza, credo che esista qualcosa che alla fine è più forte dell'odio. Io ringrazio Giuseppina, ringrazio tutti quanti voi, quindi vi ricordo La finestra della libertà, frontiera per un'altra Europa, storia degli internati ebrei di Campania. Saluto Renato Mazzei, che non è potuto essere qui con noi questa sera, e auguro a tutti veramente un'ottima settimana e soprattutto, se potete, questa è veramente un'ottima lettura, regalatela anche ai vostri figli, soprattutto se stanno studiando questo difficile periodo storico, che per l'appunto è quello della Seconda Guerra Mondiale. Saluto Dani MRG, vi saluto quindi con questa canzone scelta da Giuseppina, non da me, e vi do appuntamento a martedì prossimo. Martedì, Radio Alma, Bruxellando. Cari amici e cari amiche, ben ritornati a Bruxellando, seconda parte. Questa sera abbiamo preparato una piccola sorpresa. Una sorpresa che sentirete fra poco, anzi forse la sentite già in sottofondo. E vabbè, è una cosa un po' particolare, un'intervista che abbiamo fatto e che ci è particolarmente piaciuta sia per i contenuti sia per il modo in cui è venuta, ma bando alle ciance, vi lascio all'intervista. Eh sì, dato che ci hanno rubato mezza radio, vuol dire che oramai le interviste si fanno fuori. 3, 2, 1. Beh, dato che insomma... A noi piace fare cose un po' strane, cose un po' diverse, questa sera, come si sente forse dal suono, anzi capirete dopo dove siamo, li avete già capito perché con qualcuno deve sempre fare tintin. E vabbè, chi è che fa tintin? Michele Garatola, lo possiamo dire, perché Michele Garatola insieme a, caro Michele, insieme a chi? Insieme a due disgraziati che ho trovato per strada, il dottor ingegnere Marco Di Martino e la dottoressa Claudia Topalli. Bene. Qui presenti. Un corpo spirito. Questi insieme anche un intruso, un pseudo intruso che è Nicola Mara De Sicilo, che però ha un ruolo, intruso, che ha un ruolo direi necessario, importante ma diverso. E infatti stasera parliamo di una cosa che a noi di Bruxellando piace molto, soprattutto a me piace molto. Vedete, anche a Ferdarino piace, che lo so. Ed è teatro. E infatti questi tre personaggi, i primi nominati, fanno parte di una compagnia teatrale, giusto Marco? L'arte della commedia. Ah, che è insomma, una specie di un gioco di parole, invece la commedia dell'arte, l'arte della commedia. E poi è il titolo di un famosissimo RPS di Eduardo. Ovviamente, grande Eduardo De Filippo. Scusate se poco. Scusate se poco. Beh, vabbè, allora, dunque... Bisogna capire, sono tre personaggi più uno, ecco, era l'X, Nicola, tu cosa fai invece in questa PS? Qual è il tuo ruolo? No, nella PS, consulenza. Consulenza di che tipo? Tecnica. Consulenza tecnica, luci e suoni. Luci e suoni. Ecco, luci e suoni, quindi allora, abbiamo capito, Nicola, Mara, decisalo, fai luci e suoni di questa PS, adesso vediamo di che cosa si tratta. E quindi l'arte della commedia, che ovviamente avete già visto nel passato con ben altri attori, un altro numero di attori, fece questa volta uno spettacolo a tre. Chi è che ci racconta che cos'è questo spettacolo? Regista. Vabbè. Dunque, si tratta di una delle commedie più divertenti di Neil Simon, e il titolo è Andy e Norman. E riprende un po', ma vagamente, l'idea dell'altro famosissimo, La strana coppia. Adesso è chiaro che non posso raccontare tutta la trama, perché altrimenti poi vi rovinate il gusto della sorpresa a teatro. Comunque diciamo che vi posso dire qualche cosa. È la storia di due persone, Andy e Norman appunto, vivono insieme, uno è l'autore, la parte creativa di questo sodalizio, e l'altro invece è la parte finanziaria, organizzativa. E già si trovano abbastanza nelle peste, e per completare il tutto Nell'appartamento libero accanto, sullo stesso pianerottolo, si trasferisce una bella e fascinosa ragazza americana. Ops, aia. Americana. American girl. Mm. Ed è amore a prima vista. Tra chi? Ma tra chi? Ah, eccolo. Non si dice, fa parte della sorpresa. Cioè, questa donna... Se volete saperlo, venite a vederci a teatro, giustamente. Ma già che ci viene in mente bisogna dircelo, cioè, perché altrimenti ce ne dimentichiamo. Questi sono i suoni dell'estate belga. Sì, infatti sembra, Nicola, sei stato molto bravo a riprodurre il suono dell'estate belga. Questo è andato bene e... Un tuono profondo. Non mi è venuto bene il lampo, perché avevo messo un lampo... Vabbè, tanto quello in radio non si vede, non è... Possiamo raccontarlo, un lampo. Possiamo dire che era bellissimo anche il lampo, anche se l'abbiamo visto. Bene. Comunque, se volete scoprire di chi la ragazza si innamora, perché... dei due attori ce n'è uno particolarmente bello e l'altro ce lo so vediamo. Vabbè, scoprirete che vabbè, non sempre... Vabbè, dai, non ti buttare giù così. Scoprirete che non sempre l'amore bacia i belli. Comunque, la questione è un'altra. Quando volete venire a scoprire tutto questo? Il 13 e 14 giugno, 13 un sabato, al Teatro Lumen, vicino Flagel. Il 13 andiamo in scena alle 8 e il 14, che è la domenica, andiamo in scena alle 4. Una bella pomeridiana. Bene, una pomeridiana, ma perché non una mattinée? Avete pensato a fare una mattinée? Sì, il problema della mattinée è che la nostra attrice protagonista ha un ciclo biologico un po' sfasato, per cui la mattinée comincia alle 14. No, quindi lei farà una mattinée e voi farete una pomeridiana. Esatto. Ho capito, bene, quindi... Vabbè, allora, abbiamo capito, comunque tu hai già svelato, perché dici c'è una bellissima ragazza e non scoppia l'amore a prima vista. Io pensavo che scoppiasse l'amore a prima vista tra Andy e Norman sul spire, sull'invito alla ragazza, invece no, è proprio la ragazza che si innamora di uno dei due e viceversa. Questa è quello che sembra, ma come tu pensai, la realtà è spesso diversa da quello che sembra l'apparenza. In realtà bisogna capire dov'è il vero amore tra i due personaggi. Quanto è diventata filosofica? È molto crescente. Non vi preoccupate, è una commedia. Allora, voglio cercare di capire. Ma tu hai detto che la realtà è diversa dall'apparenza. Spesso la realtà è diversa. Qui in che cosa si tratta di apparenza? Insomma, andiamo un po' più nel profondo di questo. Non vuoi sapere un po' troppo tu? Curioso. Vuoi sapere un po' troppo? È curioso. Non lo so, voi che dite? Vuoi sapere troppo? Allora torno indietro e comincio, visto che voglio sapere un po' troppo, allora torno indietro, una domanda di riserva, come sempre ho una domanda di riserva, e la mia domanda di riserva è la seguente: perché Andy è Norman? Tra tutte le commedie esistenti al mondo, in tutte le lingue del mondo, cioè anche i russi mi piacciono un sacco, perché Andy e Norman? Perché Andy e Norman... Come nasce la scelta del testo? Lo posso iniziare magari a spiegare io e poi Marco continuerà. Allora, la questione è che... Se io non l'avesse capito, questa, non essendo Marco, chi parla è ovviamente Michele. Claudio ancora non si è sentita, probabilmente entrerà in scena dopo e scoccherà l'amore anche a tavola. Allora, la questione è che l'arte della commedia è diventata l'anno scorso una ISBN. Quindi c'è stato, diciamo, un passo formale nel creare la ISBN e Marco, Claudia ed io ne siamo gli amministratori. E questa ISBN è nata soprattutto per portare avanti progetti di beneficenza. Mm-hmm. E uno di questi progetti di beneficenza, che è quello in particolare che stiamo seguendo adesso, per il quale l'intero ricavato, diciamo, sarà destinato, è un progetto del quale ci parlerà Claudia, che ha a che fare con una scuola che stiamo aiutando a sorgere in India, noi insieme a un numero di volontari in giro per il mondo. E quindi, dato che volevamo dare questa forte matrice sociale al nostro primo spettacolo come ISBN, abbiamo deciso di scegliere un testo in cui ci fossero solo tre attori, in modo tale che l'intero consiglio di amministrazione potesse, come inaugurazione dell'ISBN, essere lì sul palco a portare avanti questo progetto. Quindi, tra i vari testi che avevamo visto, quello di Andy e Norman, essendo una commedia estremamente divertente e anche adatta ai personaggi, perché poi in realtà scoprirete che i personaggi che mettiamo in scena hanno delle caratteristiche che per alcuni versi nei quali ci troviamo anche nella vita reale, per cui insomma è stato una bella simbiosi tra testo e realtà. Adesso per capire come sono andiamo a guardare. Cioè, siccome è stato premesso all'inizio che c'è una parte creativo fantasiosa e una parte organizzativa, vorrei sapere chi di voi due è l'organizzatore e chi è il creativo, perché insomma a questo punto la domanda sorge spontanea dalle tue stesse parole, caro Michelo. Ma poi diciamo, mi spiegherai anche il fine religioso di questa cosa qua. Il fine... Hai detto che ci ha fatto un amministratore con Claudio, Martino e Dio. Dio in cielo ci avrebbe chiamato. No, io sono il delegato di Dio. Ah, cioè tu sei vice Dio, ho capito. Bene. Ovviamente gli attori sono sempre delle persone molto. In radio non si vede, ma c'è anche del vino qua. Non, ah, non si vede, ma si sente, si sente. Allora, spiegami, continua. Soprattutto si vedono gli effetti. Si sentono questo. Si sentono. Dovremmo fare flick e flock. Uno, due, tre, flick. È andata. È andata. Bene. Prego. Diceva. La domanda era? La domanda era... Ma non vogliamo parlare di perché stiamo facendo tutto questo? Perché io ho accennato qualcosa sull'India. Non ancora, non ancora, non ancora, non ancora. Io posso mangiare? Sul nostro profitto. Non se ne parla ancora, profitto. Avevo chiesto chi era la parte creativa e chi era la parte organizzativa. Cioè, chi faceva India, chi faceva Norman, o meglio... Norman è lo scrittore. Ah, quindi creativo. Norman è il bello della coppia. Okay. Quindi la scelta è stata diciamo... Non c'era scelta, dato che non c'era me e Marco Di Martino, era chiaro che Norman dovesse essere io. È una scelta obbligata, va bene. È una scelta obbligata. Quindi poi abbiamo Andy, che invece è il saggio della coppia. Ti avverto che sono in uno stato di estrema facilità mentale. Preferisco non parlarne. Quindi Andy, diciamo, dato che sono noi due nella realtà, lui è il saggio, era giusto che lui facesse... No, il naso si sta allungando, non è sempre così. Era giusto che lui facesse la persona saggia. No, in effetti quando poco fa hai detto che ci sono degli aspetti del personaggio che si rispecchiano nella caratteristica degli interpreti, direi proprio esattamente il contrario, perché proprio di te stai facendo il creativo e sto facendo appunto quello saggio. No, proprio non. In realtà è l'opposto. Diciamocela tutta. Quando all'inizio dovevamo scegliere i personaggi, vabbè, chi dovesse essere il personaggio femminile non c'è stata molta discussione. Ma ci hanno provato volevo essere io, ecco, per quanto sono. Io ho cercato di convincerli che in minigonna sto benissimo, non c'è stato perso, ma niente proprio, niente. Ma hai provato, scusa, a depilarti per fare... Ah, dici? Ecco, secondo me questo era... Non ci ho pensato. Avrebbe cambiato. Ecco, allora non avevo detto, però che gambe. Ho capito, no, prossima volta. Next step, la prossima volta. E quindi, quando abbiamo letto il copione, io ho detto, guarda, io devo essere Andy. Ah, perché io sono quello. Molto democratico. Sì. Guarda, poi ne parliamo della democrazia in questa compagnia teatrale. Comunque, non c'è democrazia in teatro come al cinema. Cosa dice il proverbio? Troppi cuochi rovinano la zuppa. Sicuramente sì. Roberto. Sono assolutamente d'accordo. Lei mi insegna, essendo regista, non esistono. Perché poi gli attori tutti diventano registi improvvisamente. È normale, la gente crede. Vadi avanti. Vadi pure. Mi sto mordendo la lingua. Allora, continuiamo. Dicevamo che dopo aver letto il copione, io ho detto, bene, io sono Andy perché questo è il mio personaggio, perché io nella vita reale, come Imola potrà testimoniare, sono il saggio della situazione, quello più vibrato, quello che tiene tutto sotto controllo, che gestisce. Mm-hmm. E invece Norman è il prototipo del sesso. Allora, quindi è chiaro che dovesse essere Marco Di Martino per il sesso. Però te ne stai approfittando perché non si vede la reazione di Imola. Si sentono delle risate in sottofondo, quindi credo che sia un commento più sufficiente. Ma è stato lì che Marco ha detto, no, Michele non ce la posso fare perché questo personaggio è troppo simile a me. Avrei proprio delle difficoltà a interpretare me stesso. Quindi ho detto, voglio forzarmi a essere Andy il saggio perché magari così... imparerò anche nella vita reale a essere un po' più saggio. Bene. Devo dire che a una settimana dalla messa in scena ho ancora qualche dubbio che questo passaggio possa funzionare, ma chi lo sa? Beh, il teatro è terapia. Gli spettatori decideranno. Esatto, gli spettatori che potranno vederlo, diciamo, il 13-14 giugno, Lumen di Flagey, dove c'è stato, per chi l'avesse saputo, già il Caffè Ristretto qualche tempo fa, insomma, è un bel teatro. Non fare pubblicità con una grandissima prestazione di Guido Castellano. noi facciamo pubblicità a tutte le compagnie italiane di Bruxelles perché siamo veramente convinti che il teatro sia una cosa finalmente bellissima, fondamentalmente. Ed è bello che ci sia la varietà. Io a proposito, sono Nicola, autore della varietà. Nicola, quando è che andate in scena voi per il vostro prossimo? Il nostro prossimo con Caffè Ristretto sarà il 29, 30 e 31 gennaio 2016. Da non perdere, anche perché ci sarà un regista di grande talento. e anche attori molto bravi, ma si si saprà, e anche attori recuperati da uno slam indiano. A proposito, dai, lo slam indiano, ragazzi, non è che io dico le cose a casa. Lui è bravo, lo sta costruendo. Lasciatelo costruire, no, infatti è lì lo script, vedo, seguito la scaletta. Mi sono portato il tovagliolo, mi sono annotato le domande, i riferimenti e i salti. Ma questo ancora lo lasciamo ancora per qualche minuto sullo sfondo. Quindi avete scelto un copione insieme o avevate altri test? Insomma, è stata difficile la scelta o è stata una cosa un po' così estemporanea? Preso questo, in effetti sì, andava bene a tutti. Diciamo che io qualche tempo prima avevo visto questa stessa commedia recitata, bravissimi, Nino Formicola e, oddio, come si chiama? Mezzosurre Gasper. E lo so, però, vabbè, sì, sono più conosciuti. Più conosciuti come Mezzosurre Gasper. Mezzosurre Gasper, e quindi mi era venuta spontanea perché ho detto, in effetti, siamo noi tre, facciamo questa. E oltretutto è una commedia divertentissima, c'è da ridere veramente dall'inizio alla fine, ci sono alcune battute che io trovo semplicemente micidiali. Dall'altra parte Simon è un grande in tutte le sue opere. Sì, è un grande, veramente un grande. Però di grande non c'è solo appunto di Simon, ma c'è anche, e così mettiamo insieme Dio, lo slam, i napoletani e la grandezza. Di grande anche, secondo me, visto da quanto mi avete detto dietro le quinte, lo scopo anche di questa commedia, al di là del teatro, c'è anche uno scopo ulteriore al quale penso verrà devoluto il ricavato. Assolutamente. Sbaglio? Assolutamente. Allora, adesso finalmente diamo parola a posso? Sì, no, sì, no, sì. No, voi non vedete, per prendere mi sta facendo i segnali. E ovviamente, siccome mi fai i segnali in inglese, io non capisco i segnali in inglese. Non sai leggere! Non vedo fino alla. Perché non me l'hai detto prima? Cosa volevi dire? Che il tempo stringe? Sì. Tempo volevo fugge. Semplicemente. Fugit irreparabile tempus. Esatto. Bene, dopo la recitazione. Per sapere, poi ovviamente. Questa corta citazione latina. Ma è uguale. Poi tanto quindi non sappiamo spagnolo. Sì, non è che cambi molto. Si comprende. Chi verrà a vedere la commedia capirà molte cose poi. Beh sì, sono sicuro, mi sembra che e capirà anche il motivo. No, è vero, prego, il motivo. Oltre ad averlo scritto nei volantini, ci sarà qualcuno in realtà che fa parte di questa associazione composta da diversi volontari internazionali, è un gruppo di persone che è conosciuto a Calcutta, e spiegheranno già all'inizio della commedia il perché. Ci sarà diciamo che una lunga storia si potrebbe riassumere forse in una maniera molto semplice. Marco e Michele hanno accettato per fare la commedia anche in tempi abbastanza stretti, forse questo è anche uno dei motivi della scelta della commedia con tre attori semplicemente, perché vogliamo aiutare questa scuola a Calcutta, che in uno slam dove non c'è assolutamente niente, e dove non ci sono i mezzi per raggiungere nessun tipo di servizio pubblico. E ci sono dei bambini, ci sono delle famiglie che vivono e dove l'attività principale di questa località, di questa popolazione, è quella di occuparsi dell'immondizia urbana, cioè praticamente il nostro urban trash che viene spedito in India, viene poi diviso manualmente dalle persone, adulti e bambini, quindi senza alcuna distinzione. E questa scuola rappresenta semplicemente una piccola opportunità, non è la certezza di un futuro garantito, è semplicemente un piccolo spiraglio di speranza, è un mezzo che questi bambini avranno, una volta imparato a scrivere e leggere, magari anche un po' l'inglese, avranno forse una chiave o un mezzo per uscire dallo slam, se lo vorranno, come vorranno. Però ecco, lo studio è quella cosa che cambia le nostre vite, ed è in questi casi soprattutto, a maggior ragione, ecco, è l'unico modo che noi abbiamo e che questi bambini hanno per cambiare il loro futuro. E noi forse ci sono tante citazioni, voglio cambiare il mondo, non lo voglio, voglio che il mondo non mi cambi, tutte queste cose qua. Però secondo me, secondo anche Marco e Michele, visto che hanno deciso e comunque ci stiamo mettendo tanto impegno e tanto, tanto del nostro tempo, è quello che è un piccolo gesto per cercare di cambiare il nostro mondo, ossia quello con cui noi siamo in contatto. Allora, io sono stata là e sono venuta in contatto con questa realtà che prima non conoscevo e sono rimasta molto toccata. Ho condiviso questo non solo con Marco ma anche con voi e voglio ringraziarvi tutti per esservi un po' imbarcato in questo challenge, perché non sarà sicuramente facile, non è garantito. Noi quello che vorremmo fare a lungo termine è quello veramente di costruire una scuola con le classi e tutto quanto. Però ecco, diciamo così, partiamo piccolo, step by step, il primo mattone è la professoressa d'inglese, poi continueremo. Ecco, questo magari potrei riassumerlo così. Anche perché capisco che il tempo è un po', ci vorrebbe una giornata. Tempo è grande, però come hai sentito Claudio, è stata l'unica a non essere interrotta. Abbiamo lasciato Claudio parlare, in effetti. Ci si poteva chiedere che cosa ci faceva una Maria Calcutta, ma questa sarebbe un'altra trasmissione. Purtroppo mi trovo in disaccordo, dopo aver fatto un po' di anni in Jugoslavia, in terra di guerra, anche durante la guerra, devo dire che non mi meraviglia per niente che Claudia sia andata dove è andata, anzi sono molto felice, invito chiunque a uscire dal nostro mondo occidentale, andare a mescolarsi un po' con altre culture, a toccare con mano, perché insomma sembra tanto che si parli di universi paralleli in fisica, teoria delle corde e quant'altro. Poi in realtà scopriamo che la teoria delle corde, che scusate, faccio una piccola lezione di 30 secondi, la teoria delle corde, che è la teoria più avanzata di quello che abbiamo, in realtà si basa su delle funzioni modulari che ancora non sono state ben comprese, che sono state create, inventate da un indiano che aveva una scolarità pari quasi a zero ed era semplicemente un genio. I geni nascono dovunque, però bisognerebbe dare a tutti la possibilità di esprimere il proprio genio. A questo tavolo mi pare che ce ne siano, però c'è un ottimo sciabile. Degli effetti del fast. Soprattutto se qualcuno si aggiusta il colletto, parlo, vabbè. Quando c'ha le geni c'è qualcuno. Sì, c'è qualcuno che si esalta, non so perché, ma probabilmente i geni si esaltano. Genio e sregolatezza si dice, no? Beh, comunque allora. La sregolatezza c'è di sicuro, sul genio possiamo discuterne. Bene, allora. Abbiamo un'ottima commedia, la base divertente, Neil Simon. Abbiamo l'arte della commedia, che già conoscete, e questa volta in versione MMC. Scusa? Versione MMC di arte della commedia. Sono lenta io. Un po', sono lenta. La scaletta ha preso due punti, versione MMC. Il 13-14 giugno a Flagey a Lume. Beh, abbiamo anche un ottimo motivo per andarci, perché credo che sia il ricavato che andrà. Assolutamente, il ricavato che avrebbe voluto alla... Tutto è ricavato, devoluto a questa pregevolissima iniziativa. Lasciami dire, forse Claudio mi può capire. Vorrei dire doverosa. Dal punto di vista tuo, non dal punto di vista delle persone che vengono a vedere. Perché uno quando tocca con mano certe cose... Decisamente. Si sente proprio, cioè non è neanche, non un dovere nel senso di un obbligo, ma proprio di... Cioè non posso fare diversamente. Sì. E poi si ha anche un po' la tendenza, no? La vita è come una ruota, no? Certe volte si sta sopra e certe volte si sta sotto. L'importante è ricordarsi che potresti essere tu ad aver bisogno d'aiuto, quindi vorresti che qualcun altro ti aiuti. E poi un'altra cosa che mia nonna mi ha sempre detto, e comunque mia nonna è una gran saggia, ha fatto solo 3 anni di scuola, però firma con una X, però è una gran saggia. Le dice sempre che c'è un momento per dare e un momento per ricevere. Ecco, io per me è il momento per dare, di dare in questo momento della mia vita, e sono contenta a non essere la sola. Beh, abbiamo anche la citazione da Coelho, o ecclesiastica che si voglia. C'è un proverbio siciliano che dice: è meglio poter dare che dover ricevere. Ma questo è anche un po' più raffinato, direi anche poter dare che dover ricevere, ancora più raffinato, a me si piace molto. Raggio Magno Greco. Allora, visto che mancano 4 minuti, abbiamo già detto molto. Vorrei finire con la chicca. E la chicca è sempre la domanda, la litizzetto che dice la domanda pizzosa, zizzosa, ma è la domanda valenga. Ecco, anche io faccio la domanda valenga. La domanda valenga finale, che durerà 2 minuti, non abbiamo più tempo, è quella sul 1. La difficoltà più grande che avete avuto nel gestire questa commedia, e tre, diteci qualcosa di un litigio, dateci, come diceva San Gesualdi, un nanetto. Un nanetto? Certo, un nanetto, il famoso nanetto di San Gesualdi. Quindi la difficoltà è il nanetto. Che praticamente sono gli stessi. Ah, bene. Perché ci sono questi due personaggi, Andy e Norman, e vabbè, un po' dovuto alla... l'anzianità incipiente di entrambi, i problemi di alzare, ma c'è lui che fa finta di niente, no, il problema, il problema è che se sono 20 anni allora, più giovane di te, io sono Andy e lui è Norman, e regolarmente durante le prove io chiamo lui Andy e lui chiama me Norman, al punto che eravamo arrivati a immaginare, cioè ci facciamo fare due t-shirt con i nostri nomi sopra. Così è facile perché lei, guardando, quindi vedi, abbiamo aneto e difficoltà maggiore riunite in una sola... Ma così vabbè, potete tenere il suspense di chi è innamorata Claudia, cioè non si saprà mai! Non sa, dice, ma quindi dice che sia lei che si innamora, fra l'altro. Io posso semplicemente dirvi che il mio nome è Sophie Buckley. La vera sorpresa della commedia è la signora Macchinini, ma non vi possiamo dire altro. Bene, ok. Allora, scusa, perché eroghiamo le supposte di Octalidon? Dove vogliamo mettere? No, questo non dovevo dirla. No. Questa non dovevo dire. E lo sciabilismo. Ma è delle grandi virtù questo sciabir, che a me piace molto, anche come da una certa atmosfera, una certa velocità alle cose. Beh, allora che mi resta da dire? Niente, abbiamo che il manetto, non parliamo di difficoltà di memorizzazione, che tanto lo sappiamo è la vera difficoltà del teatro. Soprattutto perché in una commedia con solo tre personaggi, che dura comunque quanto le altre, evidentemente abbiamo più tempo in scena. Questo è sicuro. La prossima volta io propongo di fare un atto con tre persone, il secondo atto con altre tre. Se mi dai il compito, così mi dice, sono sempre una donna, questo sempre Andy, no, ma poi vi scambiate la maglietta, a posto. Ciò posto, non mi resta altro che cominciare ad andare verso la chiusura, anzi sì, ormai siamo in chiusura, il tempo stringe, maledizione. Allora, non mi resta altro che dire, intanto, grazie per la cena, perché mentre loro parlavano io mangiavo e la pasta era ottima. Grazie. Mi sa che dovremmo rifarlo più spesso. Quando volete. Scena. Ma dopo vediamo come è uscita. vediamo come è uscita la scena. Anzi, vediamo come è uscita l'intervista. E non mi resta altro che ricordare Andy e Norman, l'arte della commedia, il 13-14 giugno al Teatro Lumen di Flaget, il sabato alle ore 8 e la domenica in matinée pomeridiana alle ore 4. E se volete... se non volete rischiare di fare troppa fila, potete comprare i biglietti sul sito www.lartedelacommedia.eu, tutto attaccato senza apostrofo, e lì c'è anche la possibilità di fare donazioni per il nostro progetto di beneficenza nel malagavorato caso in cui non doveste essere a Bruxelles e quindi vi dovete perdere questa commedia. Quindi www.lartedelacommedia.eu. Quindi c'è la possibilità anche di dare dei fondi, indipendentemente dal teatro, e questa è un'ottima cosa, perché... è una cosa di cui magari parleremo ancora in separata sede, dopo la commedia faremo così, il cosiddetto debriefing, non ho mai capito che cos'è, però fa figo dirlo. No, comunque veramente venite a vederci, perché vi divertirete un sacco e soprattutto avrete l'opportunità di dare una speranza a questi ragazzi. Grazie, con questa parola di Marco vi ringrazio, buona serata, noi ci sentiamo martedì prossimo, ciao. Ciao.